grazie al mio lavoro a tutti gli altri. E zinco, che contribuisce al mantenimento del testosterone. Quest'uomo, come abbiamo raccontato, aveva pochi amici. Che è, va? Già, tu sì. Buona tarde, mio hermano. Buona tarde. Ciao, dottor. Beh, già. Beh, ieri sono andato da Franco e gli ho chiesto per quella cosa lì, per la distribuzione. Ci vogliono 160 euro di pezzi più 100 euro di manodopera. Cazzo, a me mi aveva detto 500. Ma la tua è un 1900, diversa come macchina, bisogna vedere anche lì, che dice. Boh, che vuoi che ti dica? A me mi aveva detto 500. Se è così si può fare, dai. Due... Allora, 165 davanti a me gli ha telefonato. 165 in pezzi, ha detto tutto il kit, più 100 euro di manodopera. Però per adesso non me la può fare, che è impegnato tutto il mese, sino a fine mese e i primi dell'altro mese. Però falla, mi conviene farla, perché la cinghia di distribuzione è molto importante. Già lo so, se si rompe quella tutti i valvoli, ma quasi non è. E faccio il motore. Era successo a Gianni Leoni, è andato alla Fiat per vedere se doveva cambiarla, ha detto, no, ancora ne ha, aspetta, ne ha ancora da fare di chilometri. No, me la porti a 180.000 chilometri. E invece gli si è rotta la cinghia via di Sicilia, mi ha chiamato già, non è che puoi venire via di Sicilia a trainarmi che la macchina fa un rumore di Ferrari, ha detto, ma pure in moto mi si era rotta la cinghia, gliel'ho detto subito. No, che sono andato alla Fiat e mi hanno detto di portarla fra quando facevo, perché l'avevo già fatta una volta. Seconda, e però ancora ne ha, a 180.000 chilometri me la porti, e facendo 1.200 euro di danno ai motori. E a me a 80.000 era già crepandosi, l'avevo cambiata, adesso la devo tornare a cambiare, capito? A 80.000 era distrutta la cinghia, la mia, quella della macchina mia. E quanto tempo l'ho presa, te lo ricordi? No, me l'aveva cambiata Salvatore, quello che c'aveva la rettifica, ti ricordi? Me l'aveva cambiata lui. Quando l'abbiamo tolta a casa, ha detto, in tempo hai fatto. Salvatore Bracca, certo che me lo ricordo, c'ho anche il contatto con lui. Me l'aveva cambiata lui, la prima. Comunque adesso è anni pure, non è questione di chilometri. Ho tanto di chilometri oppure ogni 50 devi cambiare. Sì, vabbè. Mi rimuovo di dinà. Andiamo a chiudere. Prima penso a... Potrebbero essere degli oggetti... c'ho l'appuntamento per la citoscopia già. Il giorno 15 la devo fare. Io mi ho cambiato 3-4 le ruote ieri. C'è un porto che l'ho fatto cambiare. Allora, più volte. Inoltre, che è costata? Diciamo che non ne ho pagate tanto, dai, ne ho pagate 100 euro. Sì, ti è andata bene per il prezzo. Degli abiti? Sì, perché lo conoscevo questo tutto, l'ha trattato bene. Mi ha messo le gomme buone, le gomme. Non sono italiane, sono coreane, ma sono, ha detto che vanno benissimo perché le ha piazzate tanta gente e si vanno bene. Poi hanno un bel disegno anche. Sì, infatti, in più tanti anni vecchi. A proposito di familiari, la zia Adriana. L'abbiamo visto quelle di davanti, già andavano bene. Certo. Però se vuoi Kleber, Pinelli, Gutierrez, eccetera, eccetera, costano 150 euro. Sì, lo so, e magari metti quelle Klemmer che mi hai detto, che sono una schifetta. Ci deve essere un nome di, cioè, di propagazione, sento voci sotto fondo e cose. E Natali, 400 euro è giù peso sempre, non è che io, cioè, sono su. Io non so che sono di una 400 euro sono di una mani, non minori, no? Vabbè, ma c'era da fare, perché le ruote un rischio, se sono lì c'è t'ammazzo. Lo so. Io non posso dire niente, non lo so. E vabbè, adesso hai completato tutto e quindi la macchina è a posto. Se andate a trovare qualcuno. Mi vi sono fatti fare quella ciglia. La volevo, non la lui. Sì, infatti te la faccio fare a giugno, mi ha detto dopo il 4 di giugno di chiamarlo e ci mettiamo d'accordo. Ce l'hanno già, ha telefonato e ce l'hanno già tutto, quindi c'è solo da andare a prenderla e piazzarla. Roberto e la Francesca. In chi vi è un casino, a chi è sempre impegnato è Franco. Ciao, un bel lavoro con ragazzo, siamo in saluto, l'officina grande, oi, ti trovo che lo va via. E solo che lui dice io mi accontento così, ma mi va bene così, lavoro, ce l'ho, do gli appuntamenti e via. Capito? Infatti, se avesse avuto un'officina più grande non ce l'avrebbe fatta lui, avrebbe dovuto assumere gente. Hai capito cos'è il discorso? A lui va bene così, prende una macchina, la fa, la consegna e poi ne piglia un'altra. Più e così non può fare. Se c'hai l'officina più grande ti entra più lavoro ed è un casino, deve assumere gente. Perché mi hanno detto che era una persona. Di capo. Anche due ne prende insieme, c'è il ponteggio che si alza, ne metti una in alto e una giù. Ehi, già lo so che fa così. Però è bravo, se lui avesse voluto sarebbe gradito, ma non gli va bene così, ha detto che il lavoro ce l'ha, quindi non si può lamentare. Ce l'ha, sì, si è impegnato, vinta al prossimo mese, glielo credo che là, a chi ha dato gli appuntamenti va, è pieno, finta che non smaltisce non te la può fare. Franco è bravo, pure il mio onesto. Sì. Prende il suo, la sua cosa, quello che rispetta, prende, boh, basta. Non ti ruba nulla. Si è fatto un nome lui e quindi c'è clienti affezionati che vanno. Facciamo così te che c'è televisione, pensavo fosse propagazione invece televisione. Guarda, adesso si sente. Sì. Ancora si sente. Ma guarda, vedere. Di meno ma già si sente. Ma sì che non vorrà tutto volume concerto. Cavolo che basso, era un microfono bastardo, no, visto. Ne pila tutta la mondezza, oltre che se ne è forte prende anche. Vabbè. Oh yeah. Dovevo andare giù, mi ha pulirmi la macchina all'interno. Dovevo andare stamattina, poi mi ha pigliato una mandronina, l'altra lì non l'ha già udugata, non si è occupato. Perché quando vado a lavarmela fuori, me la volevo lavare ieri, ma ho visto che c'era brutto tempo. E infatti, guardami, adesso col microfono normale. Differenza, vinè. Differenza, che se normale va benissimo, non bene, non benissimo. E me lo presento. Già lo so che va bene il microfono normale, solo è fattimillo in mano, mi rompi di cazzo, dimmi. Natali va bene quanto l'altro, guarda, là e non si sente il rumore. Quello è che non si sente rumore esterno, capito, si sente la voce solo e buco. Io invece chi tu accogli tutta la mondezza, è troppo voce. Perché l'amplifica normale, quello è solo a voi di amplificare. E quindi andava bene. Ebbene, portate quella cosa all'autoresta. No, devo portare tutto in urologia, devo portare. Alla dottoressa lo sanno i rapporti. A chi dà l'interesse a tutto, lo dischetto, con tutto, ma cosa mi deve fare la distroscopia, la di 15, compreso. Sono anche io, mi di visite e cose vai, prelievo del sangue, visita diabetica, diabetologica, eccetera. Io ho l'appuntamento alla una, speriamo che Giorgio sia disponibile, se no è un casino, a cazzo mi accompagna. Un macello è. Adesso è andato in Spagna che c'è un matrimonio di un amico e rientra lunedì. Bisogna vedere adesso se mi può accompagnare a fare questa cistoscopia. perché anche lui lavora, capito? E dove c'è la sassa? Eia, devo andare all'ospedale a farmela fare, no, dall'urologa. E no, me l'ha chiesto lui l'appuntamento, mi sono un cavolo, mini Braziani. Eia, io questi giorni sto facendo, adesso devo andare al CAF per farmi vedere quella roba, poi devo farmi queste visite. Insomma, ce ne sono qui sempre pieno di roba, ma c'è vado Marco, andare a prenderlo, che fuori, andare a prenderlo a lui e alla ragazza. Poi io, stasera alle 8 mi devo muovere da casa, invece che ce l'hai tranquillo, mi tocca muovermi e andare a bigliare. E cappa. Ma Marco quando non si è sentito, l'ho sentito stamattina, però stavo facendo le pulizie, sono entrato, mi stavo solo ascoltando. E stamattina ti abbiamo fatto una bella chiacchierata, c'era Giulio, è entrato Emanuele, Marcolino, stamattina abbiamo chiacchierato, va. E io ero impegnato, stavo facendo pulizia a casa, quindi io ho acceso, ho sentito a Marco Condore e a Giulio, poi ho spento perché tanto non potevo entrare. Ecco, no, stamattina già abbiamo chiacchierato, va, un bel po'. Magari è in ascolto adesso quel pirata abusivo che... Dammi un attimo che attacco l'altra parete. Eia, attenzione, Marcolino Condo, ci sei? Marcolino! Poi aspetta l'altro, così almeno la faccio girare un po' tutti perché sono fermi un bel tempo, quindi è meglio che ogni tanto li faccia scaldare un po' gli apparecchi. Hola? Dammi un controllo natalizio, il segnale. Non viene più di Smitter. Arrivi fondo scala e no, già, no, che controllo ti do? C'è questo rosbetto che non mi sta andando bene, comprendo. Vabbè dai, facciamolo così. Non sta andando bene, sì. Si è sballato. È proprio sballato. Bisogna che ne metta un altro di roba per provarlo. Segna male. Non segna come deve segnare. Se lo metto al centro, guarda. Se lo metto al centro, guarda, su fondo scala. Oh, signora. Oh, fondo scala. Poi l'antenna ha preso che c'era il rosmetro sballato. Sì, sarà il rosmetro sballato. Guarda, un agacco mi sei uscito. Sì, è rosmetro, lì non regola nemmeno mettendoli off. Tacco con la cordatore, casino. Mi chiedo se ha qualche spezzone messo male. Cambiare. E cappa. E questo è l'apparecchio che si è sballato, no? Ho capito. E il punto avanti che c'è, Mario? Che è avanti. Si sta di tasca che non si sta vedendo. Mi stava ascoltando una cosa, non sta vedendo. Internet, si è visto. C'era fino a grazie, ma forse capito, meno male. Era tutto, aspetta, però guarda, è attenzione, è un bandarino. Che so che? Stanni! Buonasera, ciao Natalino. Ma guarda che ieri notte se ne è buttato uno dal ponte, verso mezzanotte. Ah sì, ma potrò vedere? Eia! Togliato dal giornale! No, ma questa qui è una ragazza, una donna, ha detto che il marito, che il compagno l'ha portato a mare, la figlia l'ha portato a mare, si sono ammazzati. Ha detto che lui ha combinato queste cose, la vita, le cose, le cose, le cose, le cose, sentiva che piangeva, mi butto, lui diceva, no, tranquilla, dai, se ci risolve tutto, guarda, ti aiuto io, se vuoi ti mando i soldi io, ti mando il grande numero di Stati Uniti, vieni qua a Napoli, dai, ti vado a qui. Aggiudala, ma poi non ci hai mandato i carabinieri. Ha chiamato i carabinieri per bloccarla, scusa, lui l'ho portato via da Napoli, se non me lo chiede a Napoli. Non lo so, che a Napoli, certo. Sì, a Natalino per aver meno che sassari. Natalino c'è la cosa di più, quindi la Natalino che l'ho fatto lì. Mi stavo facendo quello che c'era abito pure, poi mi sono spavata a controllo, l'abbiamo bloccato la Natalino. Natalino è un buon rispondo, la macchina mi si carina, l'avevo lasciato, l'avevo bloccato. Sì, già è vero, una notte, cazzo, ne abbiamo salvato uno. Naturale, è un'altra, io ti si sta lampando. È la fatta finita, ha detto che non andava bene, mi gira. Dai, dai, andiamo, andiamo. Quella è gente disperata, non sono in sé gente che fa queste cose così, capito? Sono disperati. Ma si sentiva Natalino, si sentiva che era disperata, gridava, piangeva, c'è un casino. Ecco. Va. Siete sopramodulati. Poi, come dolori mi sono venuti un attimo. No, qualcuno va a prendere l'abortante. No, no, ero io che stavo regolando una cosa, adesso a posto, mi ho messo tutti i due miei bocci in off, e adesso va bene Natalia, adesso sta andando bene, che già le successe non lo so. Stai arrivando a 9.30 e più mi stai arrivando, Gianni. Adesso si è messo a posto, ma così muovi la lancetta Natalia, adesso. Adesso di lusso al vino, si è messo proprio di lusso. Picchi positivi sono, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E io? Vabbè, comunque, adesso è a posto, vai. Prima stava andando male, adesso che gli ho messo tutti e due i macchi, se al centro va bene. Natalino è che non è al centro? Natalino è la zona centro storico. Ma non è lui che è al centro. Ma cosa non è al centro? Ma se non è al centro, vai da Rubè. Prova Natalino. Prova Natalino. Che dolori già. Non c'è dolori. Ehi. Non sei al centro. Ma in che senso non è al centro? 27.075. Vengo preso manco due. E prende Rubè. Natalia al centro sì. Io sono a 075 00. Non c'entra nulla quello. Ma tu al centro sì. E al centro storico. Avete compreso nulla. Alla Leare, sui dolori, un attimo di stand-by per me. Natali, poi non lo so se la puoi prendere, ma c'è una medicina che te li fa passare, è forte, è forte. se li fa passare i dolori e non ti viene nibbia alle mani, non puoi usare dare i dolori. Io la gamba ha cominciato da quando siamo andati a Umbria, che sono sceso dalla macchina e praticamente mi è venuto quel dolore dietro che ti ho detto. Poi mi è venuto il dolore al ginocchio, alla gamba, alla schiena, alle mani. Poi alla fine ho preso e mi sono preso questa pastiglia che mi avevano dato quando mi hanno operato la gamba. Oh, mi è passata e non ne ho più avuto, manco stamattina, non ne ho più, no, me l'ha fatta passare totalmente. E io ho questi dolori che mi stanno ammazzando già. Però sei ancora vivo. Io non lo so se tu puoi prendere perché sei, perché hai problemi al cuore e non so se le puoi prendere, non mi sento di dirti prendi quelle, però chiedi al dottore se le puoi pigliare. Guarda, queste qui sono micidiali, sono forti, però ti vado a rimbacciare i dolori. E vabbè, per adesso vado avanti così fino al 15 quando mi fanno questa roba qua. Oh yeah. Un attimo di stand-by, dai, non ce la faccio. E dati qualche antidolorifico, Natalino. Cosa c'è? Dolore, sai? Vedete, un antidolorifico, come facevo io, quando c'è i dolori, mi stai un consumato di occhi, io ho 8, roba di 6 o 7 scatole, l'ho consumato di occhi. E non sei solo, no. Quando, tanti anni fa, che c'è un gaggio di moto, si è gonfiato il rubino e va via un rubino che ha dolori. Sono tanto un giubilato che ha di antidolorifici, boh, manca un gioco. Però prendevo il gatto protettore prima sempre. A chi dici di crepare il sogamo? Se mi prendi il gatto protettore ti crepano lo stomaco. E fini di là, chi c'è ancora bigio? Me l'ha giubilato a tenere dentro. Mi baciava la notte, l'indomani vira via Andorra. Cata, mi veniva prendi ti posso vedere. Ed io ci via dolori. Io cercavo di aspettare fino a quando ce la facevo, perché ne stavo prendendo troppe di pastiglie. Fin quando ce la facevo aspettavo, poi quando non ce la facevo più bullavo. No, la dottoressa mi ha detto non ne prenda più perché tanto non gli fanno più nulla. I dolori ce li ha lo stesso. E invece che ho dovuto arrendere. Allora tramite l'allenamento pensavo, oggi non ci devo avere dolori. Ma sai che mi è passato da voi, i dolori non resistevo. E ti è passato che ti dovevi abbassare che, anche più sei di cucino. C'è la moto, ce l'hai tu? Moto, non ne aggiungi uno, l'ho regalato. Che moto avevi? Ma sai che l'ha aiutata? A Mario Manse. E che moto avevi? Oh, mamma mia, come che si chiama? La... non mi metto più come che si chiama. Ma cos'era? Scooter, moto grossa, cos'era? Uno scooter cioè, mi era arrivato, c'è da buio, voleva aggiustata, non metteva più in moto. Ma ve l'ha già regalata, ci ha fatto un massaggio e ve l'ha già regalata. C'è da buio non so che fine ha fatto, se l'ha posto a posto o se ce l'ha lampata. E ma Mario magari riesce a metterla a posto, vai, già se li intende. E mio Mario non l'ha già vista più in chivi. Era sempre in chivi vuota e non l'ho vista più. Vabbè se c'è la lampada. O vi la recurata. No, io non ponia in moto. Io volia buttata da un meccanico, volia buttata. Da poi l'hai facciato un video acceleratore, buro. Ma quelle già sono cose che ti puoi fare, se uno ha un pochettino di manualità già se le fa, nelle motorini ce la fai, io nel sim mi facevo tutto, io c'avevo sci e l'avevo truccato, l'avevo fatto, messo il serpentone. Ma c'era un coso, un 750 era, uno scooter 150, i gigetti, mi mani no, una cosa del genere. Ma cosa del genere si chiamava? Ah, 150 era grossa, dai, allora. Era più grossa, pensavo che fosse un 50. No, un 150 era. No, un 150. No, ho fatto la flessione nuova che avevo fatto. Tutto canta da bui, fanno tenerla in officina da mio genero. Mi ha detto, diceva, ma la vai a me. Sì, se ti fai un massaggio, sì. Se no, rimane di rarampo. Si è fatto un passaggio e mi ha giurigarato, vabbè, fanno tenermi la mezza di bili. Beh, se non la usi non ne vale la pena di aggiustarla, se non la usi poi, finché la devi usare, se non è tanta la spesa te la aggiusti via. E allora cosa, voleva registrato il carburatore che lo puniva, ma te va in moto ma non accelerava. E rimaneva sempre al minimo, rimaneva, andava a accelerare e si sudava. E se è detto che c'era più dell'acceleratore, già lo vedi che non accelerava, brutto. Mi ha detto che c'era filo dell'acceleratore rotto. No, non era da quello, prima fino a un certo punto funzionava, ha pigliato in mano Edo, ha tirato più che a posto e ha infasciato, ecco cos'è, però metteva in moto ma non accelerava. Magari era qualche cazzata. Poi c'era qualche cazzata. Natalia, come va? Adesso mia, lo so, l'ho fatto. Mi ho preso una bustina di Yuki a vedere se mi passa. Fatto. Non è perdere tanto di Yuki perché Lucky in casa di pennetta. Adesso bene va il microfono. Ci ho spento la televisione, ma com'è si è avviata, ragazzi? Sì, sì, adesso va bene, Natale, è forte, chiaro, limpido, senza rumori, senza nulla. Che amplifica troppo, capito? Anche se è bassa la televisione, si mi raccogli, non venuta di va. Vabbè. Ma che già devi fare, non li puoi su una televisione, che devi farmi da tutto. L'unica cosa è che tu ti metti le mi fai mettere le cuffie a lì, come le avevo comprate a mio padre, le avevo comprate le cuffie senza filo, perché lui era sordo, mio padre, non sordo del tutto, però sentiva male, quindi alzava troppo il volume, cazzo ti assordava. E allora le avevo comprato queste cuffie senza filo, lui se le metteva e si ascoltava la televisione tranquillamente, potevi alzare il volume dalle cuffie e tutto, potevi fare tutto. E lui se lo regolava come voleva, come sentiva bene lo lasciava e non disturbava nessuno. Lo credo. È che qua nel televisore nuovo che ho io si è rotto l'attacco delle cuffie proprio. Non lo puoi aggiustare. Non ho voglia di aprire né televisore né chi c'è né chi tu, non me ne ha fatti proprio nulla. Cazzo. Guarda, non vedo l'ora di fare quella roba lì, almeno cazzo mi negava né tutto chi sui video da cava. Cesso, cazzo. Che dolori di merda. Dai, già passa, razza lì. Ci sono i periodi bui, dopo si vede la luce, vero tu? Da bui, vede troppo bene da bui. Da bui si abbaglia a bui, dalla luce che vede. Già passa, razza lì. Come ero io, te lo ricordi, non riuscivo mai a camminare. Sì, a chi vi ridisco? Eppure, grazie a Dio, mi hanno messo a posto e non sento più nemmeno dolori né niente. Grazie chi riala rotti, ui, ma non me ne voglio ricordare qua, prendendo cazzo, occhi a tutta andà e non mi faceva più nulla, perché poi il fisico si è fatto con quei medicinali e non mi faceva più effetto. Perché fa così, chiuso la forza di Brufen. Adesso mi ho preso un occhio proprio per non pigliare il Brufen, che l'ho preso dopo pranzo, l'ho preso, capito? a me il brufo non mi faceva nulla, lui che mi faceva passare i dolori, me li alleviava, non è che me li faceva passare del tutto, ma erano sopportabili con lui. Ma il brufo non mi faceva nulla. Ma vediamo, tanto si tratta di aspettare fino al 15 che c'è l'appuntamento. Stringi un po' i denti, poi vedrai che già risulti. Intanto ho visto il filmato di quella tipa che ha sventato la rapina al tabacchino. Me da senti da este. Cioè, si sa destreggiare. Sì, di Cagliari è quella. Quella viene in sostituzione perché lavora a Cagliari, dove c'è gli altri tabacchini, quello lì, perché è una catena di tabacchi e c'è anche un bar, mi pare. È una persona che possiede. E quella lì è una delle sue dipendenti, praticamente era qui in sostituzione di una commessa e c'era lì domenica tutto il giorno. È successo domenica notte alla chiusura. Oh, yeah. E magari lui si pensava che si spaventava come vedeva la pistola, no? Invece ci dà da rumore con la bitigata e recuta il pizzo e credo che la cutura. Ah no. Ma non ne aveva pistola vera, se no l'avrebbe sparata. Un altro bandito l'avrebbe sparata con la pistola vera, invece lui sicuramente aveva qualche pistola giocata. Sì, sarà stato qualche tossico, un qualche pistola giocata. Se no lui ha rischiato un bel lì, non hai capito. E poi c'è anche un figlio, c'ha questa Alessandra, secondo me ha rischiato un bel. E occhio di non torre a Isu, che non si sa mai, se si vuole vendicare magari torna e fa qualche cazzata. Sì, li hanno già minacciati. Ovvio. Sì, a quanto so io, sì. Non bisogna mai farli di lui, Natalia, te l'ho detto con la commessa cosa ha fatto, è diventata tutta canta ruia, non è riuscita più l'operatore della casa, proprio questo qua si è incazzato a voce, apri la casa, con la pistola puntata in testa, dice cazzo qua, se non sono morto al giorno non muoio più. Sì, infatti, è proprio da uffonà. Alessandra ha rischiato. Perché se quella aveva la pistola vera e l'avrebbe sparata, chissà cosa sarebbe successo. In terra l'avresti trovato, in bada, perché se li spara da vicino non è che ci sia molto da pensare, no? Se li spara da vicino così. Già lo so, trovo da vicino o da lontano, secondo con cosa ti sparano, so cazzi. A Luciano quell'amico mio che c'aveva in Via La Marmora c'aveva un locale, no? Un circolo era. Questo qui voleva mettere a fare la rapina, lui ha cercato di chiudere la porta, poi l'ha sparato e l'ha preso al braccio, il proiettile è entrato nel braccio, però era una pistola scacciacani modificata. Se fosse stata una pistola vera dice l'avrebbe tagliato l'osso più. E allora, perché c'hanno la canna rigata quelle vele? Cazzo, fanno una bottenza, se ti sparo cazzo anche a 10 metri, cazzo di voto secco. 15 metri anche, ma pure 20, perché c'hanno potenza, non è come quelle pistole così, quelle vere cazzo fanno danno, poi un calibro come quella che ho io, cazzo calibro 9, si va di nuovo nuovo. E quando l'hanno portato all'ospedale, dice che il dottore si stava lamentando perché stava dormendo, capito? E gli ha detto se non va a chiamare i carabinieri. Dice no perché stavo dormendo. Cazzo c'entra? Cioè lo vedi che c'ho un proiettile conficcato, anche se sono in piedi c'ho un proiettile conficcato nel braccio. Che studiero. Sì, c'era la mentella. Poi dice che un dottore, siccome faceva vita ambulante questa persona, un dottore dottore lo conosceva, lui ci ha detto che è successo, vieni, sono operatori e subito gli danno tutto. Non ti credo. Non c'è che ripetere un'infezione. Per dirti. Ed era una pistola di quelle scacciacani, ma modificata col tornio, no? L'hanno tornito la canna e molta gente lo fa. Sì, ma non è mai quando c'è la canna rigata. È meno potente, mi. Cazzo. Invece con la pistola vera è proprio c'entra giusta la cartuccia e cazzo e va a elica, quando esce gira a elica la palla, capito? Cazzo, va una potenza. Se io cazzo non portavo quell'altra che ho io, perché ne avevo vergogna che tutti vagano in questi pistoloni e quella che avevo io pensavo che non era potente. Cazzo, una di la già rigata a chi Gianfranco mi ha detto portala e ti faccio vedere il danno che fa quella lì. Che cazzo, a chi va la canna da guerra quella che ho io, quella piccola? Io piccolo un cavolo, fa un danno tremendo, perché l'ho visto io cosa fa quella pistola. Ma quella storica che c'è in campagna. E allora, quella lì cazzo fa un danno tremendo, perché io pensavo che non era potente come pistola, perché era piccola. Cazzo non è potente, basi un danno. Abbiamo provato su un bersaglio, ha fatto puff il bersaglio. Cos'era la P38, Natalia? No, una beretta è, una beretta 765, però cazzo, va la canna da guerra, cazzo, e fa di danno. Poi con le armi non c'è mai da scherzare, dai. Avanti il sole, tu la pistola non ce l'hai. No, l'ho lasciata quando ero militare. No, io ho venduto tutto, non c'ho più nulla, né fucile né pistola, c'è proprio una e l'altra. Ho venduto. Io ho due pistole, una carabina e un fucile. E quel fucile è tremendo, quello lì cazzo se spari con quello fai il massimo danno col minimo beneficio per chi si becca una cartuccia del genere. Io c'avevo anche la Diana con le... come si chiama? Col cannocchiale per mirare, dai, adesso non mi viene il nome come si chiama, però c'avevo la Diana col manico in legno, nuova, l'ho data a una persona che conosciamo tutti. E cappa, e se no quella carabina che ho io, chi se ne batti 1500 metri? Ma quella ci vuole porto d'armi, Natale. Allora io armi giocattolo non ne ho. C'ho solo roba che fa danno. E fucile a pompa. Chi è sino chissumi? Chi su va di danno a bere? C'è un gargheggio a pallettone, a sue mitra, Se ti batti in pace. Tore. E perché tu da militare che cosa facevi? Carabiniere? Oh, il coso c'avevo. Oltre al fucile c'avevo la pistola e la mitragliatrice. Ma via. Ma cosa facevi? Sentinella? No. Questo sentinella. Allora ci ho fatto un militare. Voi mi hanno consegnato la mitragliatrice e più la pistola. Vabbè, ma quelli lì sono dello Stato, mica sono di lui, no? Te ne danno per allenarti lì, poi li restituisci. Infatti, poi l'ha già lasciato tutto, che era mio. Se ne mettevo la firma, la pistola me la lasciavano. E continuavo a avere abitura e uscivo, quando uscivo a fare la ronda, gli abbovari militari, ero sempre in coso, diventato serio, a chi ero coso, è diventato caporale, da caporale a voi mi ha rimbacciato il caporale maggiore, dai chivi, ero diventato appena bioace, voi. Vabbè, ma una volta che finisci il servizio lì devi consegnare le armi, non penso che te le possano lasciare. Mio suocero, per dire, quando è andato in pensione, la pistola l'ha versata, e l'ha versata, lui era in polizia, e l'ha versata l'arma. Quello sì, no, io all'inizio, i primi due mesi li ho fatti in polizia a Trieste. Andava a vedere, mi pigliavo 600.000 franchi a romesi, mi pigliavo, perché ero in addestramento. A voi veniva uno vicino a casa, che c'è da un'altra aiana di casa, mi ha messo il bastone fra le ruote, e non voleva che entrasse in polizia. Credo dubbio che a me. Vabbè, se lì c'aveva delle facoltà lì, magari ti ha messo parola contraria, e magari non sono rientrato che raggio uno da Sabì si è sotterrato in casa sua, pensa di più si sono fuggiti, ha chiesto che ha una bestia il padre. Io l'ho fatto per voi, di zia. Allora ha detto, ma va a cagare, uomo di merda, e ha detto un poco di cosa. Pensa che si è sottarrato. Ma lui poliziotto era. Ehi, già voleva faceva il custode in provincia. Era sempre di servizio in provincia, tirano il culo. E quindi i poliziotti ne conosceva, perché in prefettura lì ci sta la polizia. Natale, ripreso ti sì. E così sono. Uia. Vabbè, devi stringere i denti, sino a quello ti fanno quello che devono farti, perché almeno ti bacia tutto. Il Dio di intendi, già, mamma mia. Tutti a me stanno succedendo. Cazzo, curato il mattologo va giù, la visita, lo sai quando? A novembre mi ramirata. Già ti passa Natale, una volta che ti fanno quello che ti devono fare, ti passa tutto. Sì. Quindi come te lui, non gli dice mai capisamini da Lurizio, poi lascia perdere. Io già pensavo che mi mettesse il segnale hotel. Sì, già lo so che hai rimesso male. Via. Questi sono insopportabili dolori. Papà lì, domani devo salire al cupo a vedere se per luogo come si chiama? Ottorino, dottorino, boh. Ah, tappa mirareci. Oh. Ti va a dare a me appuntamento quando sei muscio, a mamma mostro, dice. Adesso via, ma roba la chiudi. Se ti sto dicendo per quell'affare che mi è uscito nell'occhio, quella caraccio che ho, a novembre mi hanno dato l'appuntamento, ma perché non vanno a fanguarla? E a questo d'ora buu. Noi manca Sassari. A farmi la dacchia dopo tu dici a Olbia. Cazzo, a ritirare un refetto, un matese d'ora Olbia, so che tu puoi andare a quei disetti lì. Mi già per già nei nobi. So che arrivi tu cazzo a pezzi. E mi sono cominciati i dolori quando stavo aspettando che mi chiamassero per ritirare l'esito, cazzo. Sì, Natalia, l'hai domandato pure a me. Io non ti ho potuto neanche accompagnare a fare le budi, purtroppo. E vabbè. No, io domani mattina, se c'è chi sta bene il ghizzo, domani a Manzano, salgo al cupo e guardo se c'è posto. Ha già provato a dare a coso, mi ha detto fra due mesi. A pagamento mi ha detto fra due mesi. Ha detto mi tengo una recita a fa due mesi mi tengo. Sì, su cazzo, manca a pagamento una ciappi lungo. Qui è un casino, sta diventando un casino. Arrivo. Dove li va subito io a pagamento? Mi bisogna dire. Cioè fai a pagamento, deve dare per indirizzo. Ho già telefonato, sì. A luglio glielo possiamo fare, a metà luglio. A metà luglio. E così diventa un gioco, io ho tutto diventa. Certo, beh. No, va, è impossibile. La sanità sta andando a rotoli sta andando. Ed è a pagamento, figurate un po'. Sì, infatti, manca pagamento, a chi tutti sono andando a pagamento, non c'è fanno i rubo. E poi un obbediente che è malata e... Gesù, grazie, che appunto se mai bene. Ha detto il dottore, ma la dottoressa mi ha detto che mangiano. Dice, impegnativa io gliela faccio, guardi se riesce a passare, ma faccelo fare subito. Aspettiamo, se no uso i gannetti. Ti biglionati che si corni. Cazzo, e ti rubano i arecci, cosa vuoi ti dire? Cazzo di altro. 2,50 euro, ogni volta c'è più impendente, 2,50 euro ragazza, ma cava a me che questo cazzo di un gerumbo. Gesù, cazzo. No, non ne posso più, perché c'è quella parabassa in sinistra che non intendo. Il trattamento c'è fatto a tappo. Certo, sono una popolata. Oppure ti metti con le... con i cosi... quei cilindri con il fuoco che lo fa salire. Quello sto usando, è quello sto usando. Ma neanche da dove ne c'è potrà attendere. Bisogna stare attenti ai capelli con quella roba lì. No, c'è il dischetto, più di tanto non arriva a quel punto e dopo te lo devi spegnere. Vabbè. Va sempre fuoco, va, il zio. Vabbè, cazzo, ti intendi vicino, la prima cosa che ti piglia è ne rimane. Però quando arrivi a quel coso lì, dove c'è il segno, lo metti in mezzo all'acqua e lo spegni. Beh, non te l'assurate quello lì. A me ne cavano un bel di cerume, un sacco di cerume c'ho di dentro. Cosa che io rugo un fiocco di non ho un bel. No, non usare cotton fioc, ti peggiora la situazione, te lo fa entrare più dentro. Cotton fioc non idratta, perché è peggio di andare al buio. Cotton fioc te lo fa solo entrare più dentro e te lo pressa, capito? Non ti va di rudato. Ma deve essere quello lì che me l'ha fatto. All'ultimo si è tappato, stava su questi scendi di capammi nero piano piano. Ah, domani abbaglio ci per adesso, se me lo datene troppo lontano, continuo a farmelo con questa cosa. Ma te lo toglie, te l'ha tolto. Ogni volta che me lo porto me ne rugava, ce n'è parecchio, ce n'è, ogni volta che me lo faccio. Solo che devi aspettare una settimana a farlo. Ma non è che soffri di otite, no? Ah, non soffro di otite, se no me è andata a dolori. Ma a dolori non ne ho. Perché a formarsi così, boh, così tanto? Di solito c'è il tappo, tutto quello no, ti libera, dai. Dal raffreddore mi è venuto, il tappo si è formato da un raffreddore. Ah, ecco. Perché sono collegati, orecchie e nasi e gola sono collegati. Ti ha cercato di spingerlo da come il naso tappato e spingerlo, sforzarlo a uscire, non da davanti, non ne vuoi uscire. A mio padre gli aveva fatto male all'Ibis, l'aveva fatto l'otturino e gli ha fatto male, gli ha dato un ferro, cazzo, c'è da dolori, lui non doveva venire gelato il timpano. E a me sembrava poco in un seggio e chiedo un risarcimento. Cazzo. Vale la casa dell'elefante. Prima gli ha buttato l'acqua, ha cercato di aspirarle, no? Poi ha preso questa con la luce, ha preso questo ferro a uncino e stava cercando di togliergli i pezzi che erano rimasti. Cazzo, era toccata un dolore da morire. No, io manco me lo faccio fare, che su io. Il ferro non me ne deve intrappare nulla. Se perdesse a cavarmi in nero è buono, se no pazienza, non deve usare gancetta né che è nel nulla, non si tolgono così. Quindi magari qualche pezzo che era attaccato lo stava raschiando, capito? Magari le fuggi di Uber era toccato un infarto. Sicuramente sì, te l'ha fatto giorno. Ti ha fatto uscire il sangue anche. C'è un poco, ha lesionato voi, però non l'ha denunziato. No, mio padre era il tipo che denunciava nessuno. Gli ha praticamente dato queste gocce da mettere, ha detto ci metta queste gocce e sicuramente magari raschiando avevo toccato il timpano. Sono cose che possono succedere. No, a me la dottoressa mi ha dato delle gocce per sciogliersi il cerumo, queste gocce qua che sono forti. No, sai che non agito per niente. No, secondo sono le oleose sono. No, non sono oleose, sono proprio liquido che ti fa sciogliere il cerumo. Infatti stamattina gli ho detto che non mi ha fatto nulla. Vuole fatto con l'acqua calda e col coso. Oppure con quel metodo che vendono in farmacia, con la spirale. Ce l'ho la spirale io, ce l'ho. Sto provando anche con quello, ho provato, ma che non ne esce, no, non ce l'ha fatto io. Beh, però con il coso, con lo spray per sciogliere il cerumo, me l'ha sciolto un po', però deve darci che viaggio in fondo. Beh, devi stare coricato di lato quando lo metti, prima lo fai un orecchio e poi all'altro. Se tu ti rimbeci subito non entra, no, te ne cade tutto. Fatto, bisogna che cade qualche mezz'ora avremmo. Fatto con il coso, poi ho formato pure la gannetta, ma me l'ha tolto parecchio, però devi lasciare venire un bel finne. E con questo apparecchio come mi senti? Questo qua è degli anni 80.